Me le suono e me le canto, le canzoni sdolcinate, me le scrive e me le ballo, le canzoni complicate, me le ascolto e me le sogno, le canzoni incasinate, poche strofe e un ritornello che non è nemmeno bello. Io ci viaggio con le note, la mia droga e la mia dote, basterebbe che io trovi chi le arrangi e le promuova. Non mi arrendo, non mi arrendo. Open your eyes. Qualcuno mi produca prima che venga domani, prima che sia costretto ad impiegarmi al comune. Qualcuno mi produca, aiuto, aiuto per favore, prima che diventi vecchio e ho bisogno del Viagra. Oh no, oh no, oh no. Andropausa. Mi serve una sala in cui possa registrare con un fonico fedele il produttore esecutivo, un chitarrista affezionato con in mano lo strumento che canticchi bossa nova fino allo sfinimento. Un pianista visionario è proprio quello che ci vuole per coprire questi accordi un po' miseri e banali, un addetto all'elettronica che sappia improvvisare, un po' fuso e un po' geniale che mi sappia consigliare. Non mi arrendo, non mi arrendo. Open your mind. Qualcuno mi produca prima che venga domani, prima che sia costretto ad impiegarmi al comune. Qualcuno mi produca, aiuto, aiuto per favore, prima che diventi vecchio e ho bisogno del Viagra. Qualcuno mi produca prima che venga domani, prima che sia costretto ad impiegarmi al comune. Qualcuno mi produca, aiuto, aiuto per favore, prima che diventi vecchio e ho bisogno del Viagra. Andropausa. Qualcuno mi produca prima che venga domani, prima che sia costretto ad impiegarmi al comune. Qualcuno mi produca, aiuto, aiuto per favore, prima che diventi vecchio e ho bisogno del Viagra. Oh no, oh no, oh no. Andropausa. Vorrebbe un'etichetta che mi lanci questo pezzo, ne ho bisogno per pagarci la bolletta della luce. Una donna che mi ama ma non basta in una vita, e un cane che mi stima in cambio del suo pedigree. Qualcuno mi produca, qualcuno mi produca, qualcuno mi produca prima che venga domani, qualcuno mi produca prima che venga domani, qualcuno mi produca prima che venga domani, qualcuno mi produca prima che venga domani, qualcuno mi produca prima che venga domani, qualcuno mi produca prima che venga domani, qualcuno mi produca prima che venga domani, qualcuno mi produca prima che venga domani.